Il mio intervento prende in esame i due autori indicati su una parte specifica della loro produzione esegetica, i commenti a Matteo. Si potrebbe credere che il confronto debba riservare solo o prevalentemente divergenze, perché è noto che il commento ilariano si caratterizza per una impostazione fondamentalmente allegorizzante, mentre quello geronimiano manifesta massima attenzione alla lettera del Vangelo. Ma questa distinzione, così come il ricorso di Girolamo agli scritti di altri commentatori, reclama qualche approfondimento. Converrà intanto prendere le mosse dal famoso prologo del commento geronimiano, che dichiara il debito nei riguardi dei predecessori e la propria linea interpretativa. Dopo aver ricordato di aver letto numerosi commentari dei greci, Origene, Teofilo, Ippolito, Teodoro, Apollinare, Didimo, il nostro autore aggiunge: ed inoltre gli opuscoli dei latini, Ilario, Vittorino e Fortunaziano, i quali hanno scritto opere degne di memoria, anche se da esse trarrò soltanto pochi spunti. Precisa però che l'improvvisa richiesta del suo corrispondente, Eusebio di Cremona, che sollecita la redazione in pochi giorni di un commento il più possibile conciso e penetrante insieme, lo ha costretto a trascurare gli insegnamenti degli antichi, non avendo avuto il tempo né di leggerli né di seguirli. Dunque, la lettura dei commentari di altri interpreti è ormai remota e solo la memoria sembrerebbe conservarne qualche traccia, una situazione analoga a quella che ora sentivamo enunciata dal professor Duval in merito a determinati testi di Origene dichiarati come presenti alla memoria e che in parallelo invece sembrano essere ben presenti sotto gli occhi di Girolamo nel momento in cui sta componendo. In ogni caso, Girolamo ritiene di dover richiamare il proprio interlocutore. Non creda Eusebio che la rapidità della redazione del commento costituisca la spia di una massiccia utilizzazione del lavoro altrui. Sintomatica dichiarazione che parrebbe configurarsi come excusatio non petita. Certamente tu sai, scrive Girolamo, e io mi vergognerei di chiamarti a testimoniare il falso, che ho dettato questo opuscolo con tanta rapidità che quasi ti sembrerà che io abbia letto cose altrui, anziché messo insieme cose mie. Comunque si debba intendere il rapporto con gli altri interpreti, che sembra parallelamente ammesso e smentito, è almeno chiaro il procedimento esegetico adottato. Ho brevemente messo insieme un'interpretazione storica, come tu specificamente mi hai chiesto. Qua e là ho aggiunto qualche spunto di interpretazione spirituale, riservandomi di compiere in avvenire un'opera più perfetta. La promessa all'amico, l'impegno con se stesso di scrivere un commento più completo, non saranno mantenuti, come spesso accade per i tanti impegni di ricerca e di lavoro soffocati dal turbinio del quotidiano. E così ci è rimasto il conciso commento, di impostazione prevalentemente letterale, sulle cui caratteristiche esegetiche concordano generalmente i critici che hanno sottolineato la corrispondenza tra piano di lavoro ed esecuzione dell'opera progettata. Come abbiamo visto, il commento programmaticamente, in ossequio al desiderio del committente, vuole essere letterale, ma non al punto di rinunciare ad alcuni spiritalis intelligentiae flores. Ed in effetti l'interpretazione corre via spedita secondo il senso letterale, ma con non rare aperture in senso allegorico. Così, ad esempio, l'episodio della purificazione del Tempio, dopo l'ovvia istoria, secondo Mysticos Intellectus, indica che giornalmente Gesù entra nel Tempio del Padre e ne caccia via ecclesiastici e laici indegni. E qui c'è anche applicazione del defectus littere per l'impossibilità di comprendere iuxta simplicem intelligentiam. I due che sono sorpresi nel campo al momento del dramma finale indicano la sinagoga e la chiesa, o anche le eresie. Il commento di Ilario precede quello geronimiano, composto nel 398, di una quarantina di anni all'incirca. L'In Matteum è composto prima che Ilario, durante l'esilio in Asia Minore, entrasse in contatto con la cultura cristiana di Oriente e soprattutto con Origene, ma rivela stretti paralleli con i moduli ermeneutici origeniani ed in vari casi sembra testimoniare anche la conoscenza della polemica in merito all'adozione del sistema interpretativo di Origene. Il nostro autore, molto spesso, anche se non in modo sistematico, sovrappone al livello di lettura letterale un secondo di significato spirituale, teoricamente estensibile a tutto il Vangelo, non solo ai fatti ma anche alle parole di Gesù, connesso con il senso letterale da un rapporto di somiglianza. Il primo significato richiama senza forzature quello superiore, in modo che da tale sovrapposizione il senso letterale non abbia a soffrire. Pochi sono gli episodi interpretati solo in senso letterale. È chiaro che l'interesse dell'esegeta, anche convinto dell'importanza del senso letterale ai fini del progresso spirituale, è per il secondo livello di lettura. Il rapporto fra i due livelli è quello di una realtà inferiore e materiale rispetto ad una superiore e spirituale, ma più spesso tale rapporto è visto come relazione fra ciò che è presente e ciò che è futuro, nel senso che il fatto narrato nel Vangelo, oltre al senso immediato, indica anche una realtà a venire. Il commento di Ilario rivela con chiarezza un'esegesi di tipo alessandrino. Al di là di tutti i procedimenti tipici, è indicativo in tal senso il fatto stesso che un testo evangelico sia stato sottoposto ad una allegorizzazione quasi sistematica. Procedimento iniziato da Origene nella Chiesa Cattolica, procedimento che ha avuto successo solo in ambiente alessandrino. D'altra parte, Ilario rifugge dal simbolismo etimologico, non parla di allegoria, pur allegorizzando di fatto così ampiamente, chiarisce che la sovrapposizione del secondo livello di lettura non danneggiava il senso letterale del testo. Ecco dunque, così, per rapidi cenni, la conferma di quello che anticipavo, che l'interpretazione di Ilario non intende appunto caratterizzarsi come una identificazione con il modello origeniano, che forse Ilario ha conosciuto solo in parte, e d'altro lato sappiamo con certezza che Ilario mostra questa conoscenza del dibattito riguardante l'interpretazione proposta da Origene e l'opposizione che essa ha suscitata. Sulla base di queste considerazioni e degli elementi di confronto che ne derivano, passiamo allora a verificare l'interpretazione che i due commentari propongono di taluni significativi loci di Matteo. Io ho operato inizialmente secondo una campionatura per determinati testi più significativi e ho scelto i primi tre capitoli di Matteo, che in qualche modo rappresentano una vicenda, tra virgolette, storica, dalla genealogia alla nascita, all'adorazione dei magi, sino al battesimo. Il capitolo nono per il resoconto dei miracoli e poi determinati passi del Vangelo di Matteo che si qualificano o per l'avvenimento particolare che propongono tipo l'episodio del fico sterile, oppure per la lettura delle parabole, in modo da avere così la possibilità di un confronto fra i due autori. Sulla base dei dati emersi, poi, diventa necessario impostare un secondo ordine di considerazioni che più in là vedremo. Partiamo dai primi tre capitoli di Matteo. L'analisi su questi capitoli, che riguardano appunto la discendenza del Salvatore, la nascita, l'adorazione dei magi, la fuga in Egitto, il battesimo, l'analisi presenta elementi comuni nei due interpreti, derivati però verosimilmente da una tradizione ormai collaudata e in varia misura verificata proprio nell'ambito di una serie di contesti polemici. Vediamo rapidamente alcune indicazioni. Nel presentare la distribuzione della genealogia in tre serie di 14 generazioni ciascuna, i due commentatori evidenziano che nella seconda serie sono omessi tre re. Analoga anche la spiegazione dell'omissione, l'intento dell'evangelista di escludere una piccola empia serie per non collocarla nella genealogia della Santa Nascita. Identica è la sottolineatura che nella terza serie le generazioni sono 13. La 14ª dunque è data da Cristo stesso. Comune è l'osservazione che Giuseppe e Maria erano della stessa tribù. È un dato che serve a risolvere l'obiezione, che in realtà è esplicita nel solo Girolamo, sul significato del succedersi delle generazioni sino a Giuseppe. Perché le generazioni vanno sino a Giuseppe nel momento in cui costui non è il padre del Signore. Ancora, elementi comuni. La menzione del sospetto di taluni che attribuiscono a Maria anche altri figli. Perversissime suspicantur di Girolamo. È vicino alla presunzione degli homines bravissimi di Ilario. L'equivalenza simbolica magi uguale pagani e la spiegazione del mistero dei loro doni. Il pianto di Rachele, secondo la profezia di Geremia, addolorata perché i figli venivano uccisi da coloro che avrebbe voluto conservare come figli primogeniti. L'approvazione della formulazione evangelica «il bambino e sua madre», Gesù e Maria, in luogo di il figlio e la moglie. Giuseppe prese il figlio e la moglie e ritornò, invece è detto il bambino e sua madre. L'altra affermazione non corrisponderebbe a verità. I motivi per cui il Salvatore riceve il battesimo da Giovanni: per rispettare la legge, essendo nato uomo come gli altri, per mostrare, santificando le acque del Giordano per mezzo della discesa della colomba, l'avvento dello Spirito Santo nel lavacro dei credenti. La dimostrazione ancora del mistero della Trinità nel battesimo. A fronte di queste convergenze, che possono sembrare numerose, ma sicuramente dipendono per la massima parte da un patrimonio ormai tradizionale, e qui aleggia la grande ombra di Origene, patrimonio certamente confermato e convalidato in mille polemiche, ben più significative le divergenze. Pochi esempi. Uno ve lo propongo sul diverso atteggiamento esegetico, versante letterale, versante spirituale. In Matteo 2:19-22 leggiamo: morto Erode, Giuseppe viene avvertito da un angelo di ritornare in Giudea con il bambino e sua madre. Durante il ritorno, avendo saputo che era re Archelao, il figlio di Erode, ebbe paura di andarvi. Ilario ragiona sulla base del defectus littere. Giuseppe non avrebbe dovuto aver paura, perché avvertito. Oppure l'avvertimento, che poi sarebbe stato modificato, non avrebbe dovuto essere portato da un angelo. E da ciò individua un significato tipologico. Tipica ratio servata est, commenta, riprendendo un'espressione tipica ratio che è caratteristica appunto del suo commento. E qui vediamo come immediatamente ogni elemento della pericope evangelica riceva, in perfetto stile alessandrino, una interpretazione simbolica. Giuseppe è figura degli apostoli, ai quali Cristo è stato affidato per essere portato dappertutto. Essi, siccome Erode era morto, cioè siccome il suo popolo si era disperso al momento della passione del Signore, ricevettero l'ordine di predicare ai giudei. Ma poiché sussisteva il dominio di una incredulità ereditaria, e questo sarebbe Archelao, hanno paura e si ritirano. Avvertiti in sogno, vedendo cioè il dono dello Spirito Santo nei pagani, essi portano a questi ultimi Cristo, inviato alla Giudea, ma proclamato vita e salvezza dei pagani. Girolamo si limita a distinguere fra l'erode dichiarato morto nella pericope evangelica e quello da cui il Signore è deriso durante la sua passione. In realtà, figlio di quell'erode e fratello di Archelao. Ristabilito il dato storico, la cui mancata conoscenza induce molti in errore, Girolamo invita a leggere la storia scritta da Giuseppe Flavio. Seconda situazione, differenti interpretazioni simboliche. La veste e la cintura di Giovanni Battista, Matteo 3:4. Per Ilario, il vestito fatto di peli di cammello indica la fisionomia esotica di questa predicazione profetica. È con le pelli degli animali impuri, ai quali siamo considerati simili, che il predicatore di Cristo si veste. E tutto ciò che in noi era stato prima inefficace e ignobile viene santificato dal vestito del profeta. Mettersi una cintura significa predisporci efficacemente a compiere ogni opera buona, in modo che ci accingiamo con la volontà al completo servizio di Cristo. E i commentatori, nel caso specifico Doagnon, rinviano all'utilizzo di formule classiche per questa spiegazione della cintura come accingersi all'opera. Girolamo sottolinea, dice di peli di cammello, non di lana. Una veste siffatta è indizio, indicium, di austerità, mentre la veste di lana è indizio di mollezza. E la cintura di cuoio con la quale anche Elia si cingeva i fianchi è simbolo, ricorre proprio symbolon, simbolo di mortificazione della carne. Come vediamo, è ridotto il ricorso all'interpretazione simbolica, sintomatico anche l'uso proprio di indicium, biblico il richiamo per la cintura rispetto al possibile modello classico o richiamo classico per Ilario. Seconda serie, i miracoli di Matteo 9. Un intero capitolo, 5 interventi miracolosi del Cristo, la guarigione del paralitico, della figlia del capo della sinagoga, dell'emorroissa, dei due ciechi, dell'indemoniato muto. Soltanto 2 i paralleli che si segnalano. Le parole rivolte dal Cristo al paralitico, abbi fede figlio, ti sono rimessi i tuoi peccati, suscitano la reazione degli scribi che pensano costui bestemmia. Girolamo richiama Isaia 43:25, in cui Dio afferma «Sono io che cancello le tue colpe» e commenta che gli scribi accusano Gesù di bestemmia perché lo consideravano un semplice uomo e non capivano le parole di Dio. Già per Ilario, alcuni scribi rimangono turbati nel vedere che il peccato è stato rimesso da un uomo. Solo un uomo, infatti, essi vedevano in Gesù. Secondo parallelo. Per entrambi gli esegeti ha un significato simbolico l'intreccio di due miracoli, quello della figlia del capo della sinagoga e quello dell'emorroissa. Ricordate il racconto evangelico, mentre Gesù si reca alla casa del capo, la donna affetta da perdite di sangue riesce a conquistare la propria guarigione. Per Ilario, nella figura dell'emorroissa viene espressa la salvezza resa prima ai pubblicani e ai peccatori. La salvezza offerta ad una viene resa ad un'altra. E anche per Girolamo è significativo che l'emorroissa, obbligata dalla legge a star fuori della città, gli si avvicina durante il viaggio, mentre il Signore cammina, anzi mentre va da un'altra per curare un'altra donna. Anche qui seguiamo un esempio fra le tante divergenze. Le parole rivolte a due riprese da Gesù al paralitico, ti sono rimessi i tuoi peccati, la prima dichiarazione, e poi alzati, prendi il tuo letto e va a casa tua. Per Girolamo, Gesù compie un prodigio visibile per dimostrarne uno spirituale. In quanto con la stessa potenza con cui è stato risanato il corpo, è stata liberata l'anima dalle sue colpe. Per Ilario, ancora una volta secondo il modello alessandrino, ogni affermazione o imperativo ha un suo specifico significato. Cristo ha concesso prima la remissione dei peccati, poi ha mostrato la potenza della risurrezione, il riferimento all'imperativo alzati. Quindi ha insegnato, facendo prendere il letto, che per i corpi non ci sarebbero stati più infermità o dolore. Infine, con il ritorno alla propria casa, ha insegnato che i credenti devono riprendere il cammino che conduce al paradiso. Terza serie. Avvenimenti misteriosi o significativi della vita di Gesù, il fico sterile e il tributo a Cesare. Il fico sterile. La pericope evangelica, di non facile decifrazione perché il miracolo avviene in tempo pasquale, quando cioè era naturale che il fico non recasse frutti, era stata fatta oggetto di interpretazione allegorica da parte di Origene, che aveva proposto il fico come simbolo della sinagoga sterile e il monte che si trova nello stesso contesto evangelico come simbolo del diavolo. Le due interpretazioni erano respinte senza far nomi da Eusebio di Emesa. Egli parla di Gerusalemme invece della sinagoga e intende nel senso che Gesù, sapendo prossima la sua passione, volle compiere un miracolo strepitoso per infondere fiducia nei suoi discepoli, dimostrando che spontaneamente si consegnava agli avversari e si faceva uccidere. Nell'interpretazione della pericope, Girolamo dà interpretazione allegorica, il fico sterile e la sinagoga, il monte e il diavolo, e poi ha un piccolo rimando all'interpretazione letterale. Gesù, prima della passione, debuit discipulorum animos signi anticipazione firmare, mettendo così insieme le interpretazioni di Origene e di Eusebio di Emesa. Identica l'interpretazione di Ilario solo sul versante allegorico. E all'interno dei due passi appare molto simile lo sviluppo simbolico che entrambi gli autori impostano sul fogliame del fico. Per Ilario, il fico, cioè la sinagoga, il suo popolo, è sterile e ricoperto solo di foglie, ad indicare che il popolo si gloria di parole vuote, ma è privo di frutti, cioè sterile di opere buone e spoglio dei raccolti sperati. Anche per Girolamo, Gesù non trova niente nell'albero se non foglie, lo strepito delle promesse, le tradizioni farisaiche, l'orgoglio della legge e l'orpello delle parole. Non c'è alcun frutto di verità. Invece, nulla di significativo possiamo rintracciare nel commento all'episodio del tributo, che pure entrambi gli esegeti interpretano secondo la lettera. L'unico elemento interessante, che però segnala una divergenza, è l'interpretazione del rendere a Dio quel che è di Dio. Per Ilario è rendere il corpo, l'anima, la volontà, tutto se stesso, a colui al quale sappiamo di dovere l'origine e il progresso. Per Girolamo l'espressione si riferisce alle decime, alle primizie, alle offerte e ai sacrifici. Si noti come l'interpretazione rimanga applicata al tempo di Gesù, senza proiezioni al futuro cristiano. Una parabola. La parabola degli operai chiamati a lavorare nella vigna ad ora diversa, di buon mattino, all'ora terza, sesta, nona, undecima. Girolamo la intende in riferimento ai diversi tempi in cui ci si dedica a servire Dio, sin dalla nascita, dalla pubertà, in età matura, mentre già si declina verso la vecchiaia, nella tarda vecchiaia. E aggiunge: alcuni però spiegano in modo diverso questa parabola. Nella prima ora essi dicono che furono mandati alla vigna Adamo e gli altri patriarchi fino a Noè, nella terza da Noè fino ad Abramo, quando fu data loro la circoncisione, nella sesta da Abramo fino a Mosè, cioè fino a quando fu data la legge, nella nona Mosè stesso e tutti i profeti, nell'undicesima infine gli apostoli e il popolo delle genti, che sono invidiati da tutti gli altri. Non vi leggo il testo di Ilario, che è molto simile. In effetti si propone un parallelo abbastanza stretto in questo caso tra l'interpretazione ricordata da Girolamo come sunt qui ci sono alcuni che intendono e poi quello che noi possiamo leggere in Ilario. A monte ci sono anche in questa circostanza sviluppi già tradizionali: il De Fabrica Mundi di Vittorino di Pettau o di Petovio, che proponeva uno schema delle quattro generazioni che qui appunto verrebbe integrato per arrivare alle cinque circostanze previste dal Vangelo. Non molto emerge da questa campionatura, se cerchiamo tracce di una conoscenza diretta di Ilario in Girolamo. Numerose le divergenze, determinate dalla differente scelta del modulo interpretativo. Importanti differenze anche nei casi di comuni letture simboliche. Un gruppo di somiglianze, analogie e paralleli, spesso ricollegabili ad un importante patrimonio ormai tradizionale, e in particolare alla grande influenza di Origene. E altri punti di contatto ancora noi potremmo segnalare, al di fuori di quelli che ho proposto in quella mia selezione. Cioè, leggendo i due commenti in parallelo, emergono altre situazioni nelle quali possiamo ipotizzare un rapporto, una conoscenza di Ilario in Girolamo. Ve ne ricordo qualcuna. In merito a Matteo 5:29-30, l'invito a tagliare quelle parti del corpo che potrebbero essere occasione di caduta, Girolamo propone due letture. La seconda, introdotta da Aliter, vede raffigurati nell'occhio destro e nella mano destra i sentimenti che nutriamo per i fratelli, la moglie, i figli, i parenti, gli amici. Se ci rendiamo conto che tali sentimenti ci impediscono di vedere la vera luce, dobbiamo troncare ogni rapporto con essi, che sono parte di noi, per evitare di perderci con l'eternità, mentre cerchiamo di guadagnare gli altri alla salvezza. Già in Ilario si afferma che dall'affermazione evangelica siamo esortati a gettar via lontano da noi, o piuttosto a tagliare, i legami con i nomi più cari, per non passare dall'amicizia ad una complicità peccaminosa con essi. E tralasciamo altri paralleli di questo genere per arrivare alla parte conclusiva che può rivelare qualche apertura di un certo interesse. Sulla base di ciò che abbiamo sentito nelle ultime testimonianze, abbiamo visto che in determinati casi Girolamo si richiama ad altre ipotesi di altri commentatori. Abbiamo trovato un sunt qui e poi ancora quidam putant aliter, e nei vari casi è possibile ipotizzare un rimando al commento di Ilario. Questo mi ha indotto a condurre una lettura di tutti i passi nei quali Girolamo ricorda una pluralità di possibili interpretazioni, per vedere che cosa possa venir fuori da questi rimandi ai predecessori, ad altri commentatori. Un caso interessante dimostra una convergenza fra i due. Matteo 5, 25-27. L'invito a stabilire un accordo con il proprio avversario per non essere gettato in carcere. Girolamo ricorda che molti ritengono che questi avvertimenti si riferiscano al corpo e all'anima, o all'anima e allo spirito. Conclude: tesi insostenibili, quod penitus non stat, e si rifà al contesto. Dice: basta un'occhiata al contesto evangelico e si vede che l'interpretazione non ha alcuna giustificazione. Già Ilario dichiarava di non aver ritenuto opportuno esporre ciò che molti autori hanno pensato circa il passo trattato. Essi hanno riferito l'invito ad una riconciliazione benevola con l'avversario alla concordia del corpo e dello spirito che sono in lotta tra loro. Verosimilmente Ilario allude a Cipriano, forse a Tertulliano, e anche Ilario contesta l'ipotesi fondandosi su ragioni contestuali. Gli ultimi passi che ora prendiamo in considerazione sembrano invece direttamente confutare in Girolamo interpretazioni che rinveniamo in Ilario. Nei due passi rivenduti per un soldo, Matteo 10:29, alcuni scorgono un po' forzatamente l'anima e il corpo, ricorda Girolamo. E in effetti Ilario aveva esplicitamente asserito che ciò che viene venduto è il corpo e l'anima. Girolamo osserva criticamente che non è di piccola difficoltà inserire questa interpretazione in tutto il contesto evangelico. Per le parole rivolte da Gesù a Pietro, il famoso «Vade retro, Satana, tu mi sei di scandalo», Girolamo osserva: «Molti credono che non sia Pietro ad essere qui rimproverato, ma il demonio che suggeriva all'apostolo quelle parole». Sono appunto le rimostranze di Pietro nel momento in cui Gesù annuncia la futura crocifissione e morte. Ma a me sembra, dice Girolamo, che questo errore in cui cade l'apostolo derivi dal suo amore e non sia suggerito dal diavolo, perché il Signore gli dice: va dietro a me, Satana, vade retro me, mentre al diavolo direbbe: va via, vade retro. Pietro si sente dire: va dietro a me, cioè seguimi, obbedisci alle mie parole. In questo caso Girolamo fa sua l'interpretazione che leggiamo ad esempio in Origene, anche in Eusebio, in Ambrogio, e contesta, o sembrerebbe contestare, quella che si può leggere in Ilario. Anche Ilario in realtà accoglie l'interpretazione origeniana relativamente a Pietro. Il Signore disse a Pietro: «Vieni dietro di me», perché lo seguisse nell'imitazione della passione. Quindi il primo punto è sicuramente identico. Ma poi, proponendo una diversa interpunzione, di cui né Girolamo né i moderni fanno menzione, Ilario precisa. Rivolgendosi poi verso colui che suggeriva questo modo di pensare, aggiunse: «Satana, tu mi sei di scandalo», e conclude che non era possibile che il Cristo definisse Satana Pietro, che aveva fino ad allora menzionato sempre in maniera elogiativa, mentre invece, scandalizzato per la risposta per la quale Pietro è stato subornato dal diavolo, esprime la propria maledizione nei confronti del diavolo. Nuovamente a Pietro ci conduce l'episodio del rinnegamento, Matteo 26. Girolamo commenta: «So che alcuni, spinti dall'affetto che nutrono per l'apostolo Pietro, interpretano queste parole dicendo che Pietro non ha rinnegato Dio, ma l'uomo, e che quindi il senso delle sue parole è questo: non conosco l'uomo perché conosco Dio». È esattamente la linea proposta, e per di più in due passi, dal commento di Ilario. E poi Girolamo confuta, ma il lettore saggio capisce quanto sia sciocca questa interpretazione. Costoro, difendendo in questo accusano Dio di menzogna. Se infatti Pietro non ha rinnegato il Signore, è questi che ha mentito, dato che ha detto: «In verità ti dico che questa notte, prima che il gallo canti, mi rinnegherai tre volte». Ed osserva che dice: «Mi rinnegherai», non «rinnegherai l'uomo». Ultimo caso. Chi sono coloro per i quali Dio ha preparato, ha predisposto che siedano alla destra e alla sinistra del Cristo? Matteo 20:23. Alcuni pretendono, dichiara Girolamo, che con le sue parole Gesù voglia alludere a Mosè e a Elia, che poco prima erano stati visti parlare con lui sul monte. Ancora una volta, il bersaglio è Ilario, che assicura: «Per quel tanto che si può capire dagli stessi Vangeli, Mosè ed Elia si assideranno nel regno dei cieli». Obietta Girolamo: «Ma io non sono d'accordo. Sed mihi ne quaquam videtur». Egli non dice i nomi di coloro che sederanno nel regno dei cieli, e non li dice proprio per evitare che, nominando alcuni, gli altri si considerino esclusi. Luci ed ombre, in definitiva, nel confronto Girolamo-Ilario. Ci sono punti di contatto, analogie, paralleli, che sembrano indicare una discreta conoscenza e utilizzazione di Ilario da parte di Girolamo. Ci sono soprattutto le confutazioni, che specificamente riguardano argomentazioni di Ilario e che metodologicamente concernono gli abusi di una interpretazione allegorizzante che, prescindendo dal contesto, estrapola e modifica talune affermazioni evangeliche, assegnando loro dilatate, inverosimili significazioni. Differenze di livello interpretativo, atteggiamenti largamente difformi di fronte a detti e fatti del Vangelo, accentuano la distanza fra i due esegeti. E comunque è stato possibile almeno individuare dei passi che pongono il problema della conoscenza ed assimilazione, superando l'atteggiamento di alcuni critici che ritengono impossibile per noi oggi precisare il debito di Girolamo nei confronti dei predecessori. Già in altre circostanze ho invitato a considerare con particolare attenzione la necessità di condurre indagini sulla tecnica di autocitazione e di citazione, ovvero allusione, nei testi patristici. Introduzioni, apparati, indici delle nostre edizioni patristiche avranno molto da fare per richiamare l'attenzione almeno sui problemi da porre. Grazie.